Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Allora, questo è questo che vedete, è il camion che abbiamo visto dall'ANSA, è passato su quelle persone che si vedono, di cui si vedono a terra i sacchi adesso. Evidentemente gli spari che abbiamo sentito erano quelli dei poliziotti che hanno ammazzato questo grandissimo figlio di una puttana, però a quanto pare è stato questo mezzo. Questa è casa nostra, siamo proprio qua davanti, sotto il nostro balcone. Deve essere arrivato da là, la promenade oggi era chiusa e ha fatto, stando a quello che abbiamo letto, che ci ha mandato Luca Corbani, 300 metri travolgendo tutte le persone che trovava. Forse anche ieri era appena risuonate le note della Marsigliese, quando a Nizza, lo sapete se avete seguito Radio 24, non lo sapete se vi siete svegliati da poco, un camion si è scagliato sulla folla falciando le persone. Poco fa proprio il ministro dell'interno, il portavoce del ministero dell'interno francese, ha confermato che ci sono molte decine di morti, si parla di almeno 80 morti, si parla di questo autista di camion che poi è stato abbattuto dalla polizia e che mentre falciava le persone a 80 all'ora sulla più importante promenade di Nizza, sparava anche uccidendo chiunque gli si parasse davanti. Cioè, sono anche già queste immagini, questo video sconvolgente di un poliziotto, già definito il poliziotto eroe, che lo affianca in moto per cercare di fermarlo e viene abbattuto con una raffica di mitra. E poco fa anche, secondo il quotidiano Figaro, diverse armi, fucili, granate sono state trovate all'interno del camion che era guidato da questa persona. Ovviamente a cosa si pensa? Si pensa subito all'ISIS, si pensa subito a un attentato di matrice islamica, terroristica, come al Bataclan, come a Parigi gli attacchi Charlie Hebdo. Insomma, ci risiamo. Allora, io devo dire subito, do il numero per i vostri messaggi, perché ci ascoltate tanto anche dall'estero, come al solito, 349-238-6666. Se siete nella zona di Nizza, se siete a Nizza, se avete qualche amico a Nizza e volete anche raccontarci qualcosa, noi siamo qui. Siamo qui a raccontare, insomma, di solito inizio dicendo ah, è venerdì, che bello, è venerdì, e questa volta, insomma, è un venerdì un po' così. Allora, intanto io ho convocato Vinci, ma mamma mia, adesso quelli che iniziano, uno che mi dice abbi le palle di dirlo che era un tunisino, questo, vabbè, era un tunisino, non l'ho detto, adesso l'ho detto. Oh, calmatevi, calmatevi, che già, come dire, ci sono dei problemi. Era un tunisino, sì, a bordo di questo camion, e ho appena detto che si propende per l'attentato di matrice jihadista e dell'ISIS. Ovviamente non ci sono rivendicazioni, bisognerà capire, ma insomma la dinamica fa supporre e fa pensare proprio questo. Calmatevi, eh? Va bene, ho convocato intanto Alessandro Giglioli dell'Espresso. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Saluto anche Vincino. Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao. Questo... Insomma, di solito noi iniziamo qui con un po' di allegria, con un po' di sorriso sulle labbra, che è il modo in cui ci si dovrebbe svegliare sempre, questo certamente. Però siamo, ci risiamo, noi cerchiamo anche di fare un po' di cronaca, ovviamente qualsiasi tipo di aggiornamento ve lo darò. I giornali titolano tutti su questo, qualcuno ha fatto quella che si chiama in gergo la ribattuta, cioè magari stampati con altri titoli, poi questa strage di Nizza come il titolo del Corriere della Sera ha stravolto anche quelle che sono le prime pagine dei giornali. Allora Alessandro Giglioli, che cosa possiamo fare come prima considerazione, tenendo conto del fatto che la matrice appunto sembra quella, poi ovviamente sì, bisognerà vedere. Forse in questo momento, se possibile, più cronaca che considerazione, sì. Tu dicevi giustamente che la matrice sembra quella, non è soltanto perché quanto ha detto la gendarmeria, la persona uccisa dopo aver ucciso una trentina di persone sarebbe un franco tunisino, ma anche perché effettivamente l'ISIS, con un comunicato mi pare del 2014 del suo portavoce Al-Adnani, aveva proprio suggerito questa modalità. Colpiteli con qualunque mezzo. Investendoli con l'automobile, investendoli oltre che sgozzandoli, eccetera. Quindi è perfettamente coerente con una strategia annunciata dall'ISIS. Quindi che questo signore avesse o no dei complici, come adesso si sta cercando di capire, e che sia o no mandato direttamente dall'ISIS, sarebbe piuttosto evidente comunque che si è ispirato a una modalità di strage che è ufficialmente, proprio dal portavoce ufficiale dello Stato Islamico, considerata la più... una di quelle da utilizzare. Sì. Ho visto che la gendarmeria francese ha anche chiesto a tutti, tutti noi operatori dei media più o meno, esatto, che poi con Facebook siamo tutti operatori dei questo media, questo è interessante, di non divulgare le immagini dei cadaveri, sì, di non divulgare rumors, di non suscitare, sai, Alessandro, quando tu hai fatto sentire la Marsigliese, a me è venuto in mente la volta prima che l'avevo risentita, che era in piazza Farnese a Roma, quando ero andato al Secchino, alla veglia dopo la strage del Bataclan a novembre, sì, il 14 sì, sì. novembre. A me la Marsigliese fa sempre venire un po' di brividi alla schiena, perché il 14 luglio non è soltanto la presa dalla Bastiglia e la nascita della Francia moderna, è anche l'inizio di quel processo che poche settimane dopo, il 14 luglio, porterà alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che a sua volta porterà a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 2-3 secoli, compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Sì. Insomma, l'impressione che hai, che ho io almeno, è che veramente l'Europa nata dall'illuminismo e quindi dalla tolleranza, dalla libertà, dalla democrazia, tutto quello che l'illuminismo ha portato negli ultimi 2 secoli e mezzo sia in, non voglio dire morta perché sarebbe eccessivo, ma sicuramente in forte crisi, in forte pericolo. Perché c'è una sorta di guerra civile che sta purtroppo nascendo con drammatiche effetti anche sulla coscienza di ciascuno di noi. Quando tu dici calmatevi, io sono perfettamente d'accordo con te, perché ma guerra civile dire, è cioè, esattamente quello si che può, si può parlare di tutto, si può parlare di tutto, e sono il primo a raccontare le mie posizioni, anzi spesso accuso di essere ciechi e sordi, dico io, coloro che fanno finta di vedere o di minimizzano il fatto che non ci sia un problema. Far finta è esattamente come strillare, cioè un modo di dire esatto. Non però insomma non esageriamo. Qui si dice tutto quello che c'è da dire, il fatto che non abbia detto la nazionalità, ma chi se ne frega, non l'ho detta perché l'ho detta subito dopo, anzi grazie ascoltatore che me l'hai fatto ricordare. Poi peraltro qualcuno dice che è franco-algerino, non franco tunisino, ma insomma la cosa più importante è che la matrice sembra quella. Caro Vincino, qua di solito io ti chiamiamo non per... Non capisco perché guerra civile, non è guerra civile. Non è guerra civile. Cioè, non è che è una parte della... una parte di quell'Europa, del mondo nato nel 14 luglio alla presa della Bastiglia, una parte contro... No. C'è un assalto da fuori, non è una guerra civile. C'è un assalto da Francia che viene assaltata dalle armate di Hitler, no, non è che è guerra civile. Guerra civile è quando all'interno due parti si combattono della stessa, come dire, della stessa parte, non lo so, no, qui c'è proprio forse mi sbaglio io, ma non c'è è proprio un assalto da fuori, più che una guerra civile. C'è terrorismo, che voglio dire. Terrorismo non vuol dire niente così, come dire. È una modalità tecnica quasi. Ho capito, ma come lo dobbiamo affrontare? Questa è la questione. Certo non minimizzando, certo non facendo finta di niente. Certo però, non lo so, sentiamo... Aspetta, sentiamo per esempio il ministro dell'interno francese, Cazeneuve, mi ha preso da Sky, sentiamo che cosa ha detto, ovviamente la prima reazione dopo questo attentato di Nizza. Pour exprimer la solidarité du gouvernement, esprimo qui la solidarietà del governo, de la ville, alla città, notre compassion e notre tutta immense tristesse, la nostra compassione, la nostra tristezza alle famiglie delle vittime di questa tragedia che si è compiuta questa sera sulla promenade des Anglais. Un individuo, le feu d'artifice avait pris fin, appena dopo la fine dei fuochi d'artificio, guidava un camion, ha colpito un numero molto considerevole di turisti, di abitanti della città che uscivano da questa festa, naturalmente la festa nazionale, che rappresenta i valori della nazione. Ovviamente poi ha parlato a lungo, ma insomma ha raccontato quella che è la situazione. Questo Cazeneuve, il ministro dell'interno francese. Qua Vincino, ovviamente molta gente ci scrive: ditelo chiaramente, è una guerra religiosa. Insomma, questa è la classica questione da affrontare. Io l'ho detto sempre in maniera molto, molto chiara e molto netta quello che penso, quello che ha scritto anche Galli della Loggia due giorni fa sul Corriere, cioè dire che la religione non c'entra vuol dire proprio fare come il classico struzzo che fa finta di non vedere, cioè che è ovvio che la religione c'entra, poi sarà interpretata in maniera distorta, sbagliata, non giusta, non corretta, ma dire che la religione non c'entra è sbagliato. Però Vincino, cosa pensi secondo te che la religione c'entri in qualche modo? Assolutamente sì, c'è una parte deviata, pazzesca cosa dell'Islam, che l'ISIS è il califfato, queste cose qua, è un assalto che è iniziato con Charlie Hebdo. E che continua, nessuno aveva pensato che fosse finito, assolutamente. Non è finito, siamo all'inizio di questa guerra esterna, però non è guerra civile. È esterna. Io non capisco perché ha parlato di guerra civile. È esterna, ma è dentro di noi, nel senso che. Perché siamo una nazione aperta, libera, dove la gente entra, esce, non è che. siamo, come dire, difendiamo valori di libertà. Giglioli, insomma, dici tu. Ma evidentemente è una guerra civile, perché siamo tutti nello stesso villaggio. A me dispiace che, come dire, in questi casi, con quello mondo, che è successo, il villaggio europeo di mondo. Siamo tutti nello stesso villaggio, la globalizzazione ci ha messi tutti insieme, ci piace o non ci piace, facciamo tutti parte di uno stesso, non più di uno stesso pianeta, proprio di uno stesso villaggio. Siamo tutti intersecati, non è più come 150 anni fa o anche soltanto 50 anni fa. Quello che è successo negli ultimi 30-40 anni dal punto di vista tecnologico, strutturale, di collegamenti, di contatti, di viaggi, di movimenti in tutto il mondo ci ha resi sempre di più un unico villaggio, e purtroppo questa è una guerra civile, perché stiamo tutti intersecati fra di noi, persone buone, persone meno buone, sì, assassini, sì, non assassini, e questo è. Dopodiché questo non vuol dire che ovviamente non ci siano valori trasversali da difendere o anzi da brandire. È ovvio che la fede c'entra, così come c'entrano tante altre cose, qualsiasi forma di semplificazione monoeziologica, cioè la ricerca di una sola causa, è semplificatoria, e se c'è forse una cosa da non fare adesso è proprio quello di reagire con la pancia in modo semplificatorio. No, ma guarda, ma infatti ci sono tutta una serie di concause, ci sono fior di studi su come nasce il terrorismo islamista, su quali sono le sue cause, su quali sono i suoi, e ha ragione Vincino quando dice che siamo solo all'inizio. Su questo sono perfettamente d'accordo, purtroppo, siamo solo all'inizio, purtroppo, di una guerra civile anche globale. Perché per anni abbiamo raccontato di persone che si sono radicalizzate, di persone che sono andate a fare i cosiddetti foreign fighters, di persone che sono andate a prendere magari ordini, poi sono rientrate sommessamente in silenzio nei nostri paesi, nelle nostre città. E purtroppo il timore che ora, come dire, stiano iniziando sempre più a colpire. Flash di agenzia di poco fa, tra l'altro, qui allora la questione si tinge anche di giallo, le armi di grosso calibro ritrovate nel camion di Nizza erano fittizie, la granata non operativa, non si sa se vuol dire questo fittizie che dice l'ANSA, vuol dire finte, non lo so, lo rivela comunque la rete televisiva Itele, citando fonti vicine alle indagini, quindi sarebbero state trovate anche delle armi, come dire, non so, armi finte. Ecco, ve la giro a voi come la leggo in diretta dall'ANSA. Sono le 6:47 minuti, dobbiamo dare le informazioni sul traffico e poi ritorniamo, ricordando ovviamente Nizza è il tema con l'attentato di ieri, un camionista franco-tunisino o franco-algerino che si è scagliato sulla folla che festeggiava per il 14 luglio, festa nazionale in Francia, uccidendo, pare, 80 persone, alcune falciate, alcune sparando loro addosso con un fucile. E tutti gli aggiornamenti tra poco. 24 mattino. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l'homme sont niés. Vedi Giglioli, Olanda dice proprio questo, la Francia è stata colpita nel giorno della sua festa nazionale, i diritti dell'uomo, insomma quello che simboleggia proprio il 14 luglio, non è neanche un caso che voglio pensare che questo pazzo fanatico, questo terrorista abbia voluto colpire proprio nel cuore della Francia in un giorno, nel giorno di festa, nel giorno che simboleggia proprio per noi l'illuminismo, la libertà, i lumi della ragione sull'oscurantismo. Invece lui, come dire... Quello che tu dici, Alessandro, mi fa venire in mente il primo dei grossi attentati di Parigi, cioè quello di Charlie Hebdo, dove come no. il riferimento di evidenza precisa era proprio la libertà. L'attacco alla libertà, lo vogliamo la ricordare, cioè, Alessandro, guarda che qua, Vincino, io mi spiace Vincino se riaprire questa pagina dolorosa, che insomma che è dolorosa per tutti, ma tu conoscevi moltissime, personalmente moltissime delle vittime di Charlie Hebdo, li conoscevi in quanto amici, in quanto persone che fanno il tuo stesso lavoro, no? Cioè ci risiamo ancora e tutti ci chiedono giustamente perché la Francia, cioè perché la Francia così colpita, così ripetutamente. Si dovrebbe fare anche una riflessione molto seria e profonda su perché proprio la Francia. Tu Vincino ne hai un'idea? Non lo lo so, in questo secondo, no, è come dire, è la festa nazionale, 14 luglio, l'assalto alla Bastiglia, che è l'assalto a un carcere, no? E questa, come dire, questo Charlie Hebdo, ed era perché il giornale di satira è il giornale, come dire, più che sta al limite nella difesa di tutte le libertà possibili e immaginabili. Ed è, come dire, siamo a un inizio di una lotta che noi dobbiamo difendere tutto questo qua, come dire, con tutti i mezzi che abbiamo, e dobbiamo capire esattamente chi è il nemico, chi ci sta attaccando e come difendersi. È questa la questione, l'identificazione del nemico. Guarda, ma il nemico sappiamo chi è. Lo sappiamo chi è l'ISIS, questa entità. E certo, è l'ISIS, è no, questa l'ISIS entità. È il centro, così, il suo faro da cui emana parte sua base territoriale, che naturalmente, come dire, dove vanno a addestrarsi, dove ritornano, dove si, come dire, che bisogna distruggere, ma distruggendo quella non è che finirà, no, assolutamente. Sarà una lotta lunga, Noi pensiamo che è finita, e cosa, poi passa un altro periodo, e poi dopo ricolpiscono. Però Giglioli, qua bisogna anche, come dire, è vero, avere la calma, però sono molti di più, sempre di più i messaggi che ci dicono: abbiate il coraggio di dirlo che è una lotta di civiltà, è una lotta di religione, è una lotta contro alcuni fanatici che interpretano, ripeto, male, ma una specifica religione, che è la religione islamica, non altre religioni, ma quella religione. E abbiate il coraggio di dirlo, insomma. Io credo che sia sicuramente una lotta di civiltà, uno scontro di civiltà fra chi ha la libertà, la tolleranza, la democrazia, il pluralismo di idee con valori, e chi invece ritiene che il proprio valore, la propria religione, il proprio Dio debba essere imposto perché è quello giusto e tutti gli altri sono sbagliati. E quindi è una lotta di civiltà che io vedo molto trasversale. Sarà perché un pochino conosco anche gli islamici laici, non diversamente laici rispetto a come siamo, credo, noi tre che stiamo parlando. Certo. E vedo al contrario anche in religioni diverse, e non solo quella cristiana, ma anche nell'induismo, perfino nel buddismo. Io sono stato testimone di 100.000 persone mandate via dal Bhutan perché non buddiste. Cioè, la teocrazia è trasversale alle religioni. Io, se parliamo di scontro di civiltà fra laici nel senso di illuministi, appunto, e invece integralisti, sono perfettamente d'accordo. Non credo che sia sovrapponibile questo a uno scontro di civiltà fra due religioni. Questo mi sembra veramente una complicazione. Non tra due religioni, quelle sono le crociate, quelle le abbiamo già viste. Insomma, il confronto tra due religioni sono le crociate. Fortunatamente appartengono al passato della nostra storia, spero della storia di tutti, della nostra storia sicuramente, proprio perché sono arrivati poi altri tempi, i tempi dell'illuminismo, la Bastiglia. Quindi bisogna forse un po' intendersi sul significato di scontro di civiltà. Mettiamoci d'accordo su cosa intendiamo. Se lo intendiamo Occidente contro altro da Occidente, secondo me è sbagliato. Se lo intendiamo tolleranti laici contro intolleranti e integralisti, secondo me è giusto. Sì. Vincino, che dici? Scusa, Alessandro, sono i buddisti del Bhutan che ci assaltano oggi? Io lo dico tutti i giorni e vengo criticato. Sempre hanno prodotto questo, però in questo momento questo assalto qua è fatto da quella parte di degli estremisti della religione islamica, cioè, diciamolo. Tutte le religioni sono capaci di tutto, e lo sono state nel passato, certo. Però in questo momento il problema è lì. Il nemico della Francia nostra è quella parte là. Ma guarda, Vincenzo, io lo dico tutti i giorni, lo scrivo tutte le volte che ci sono questi attentati, lo dico con una frase che è volutamente provocatoria, e cioè: conoscete voi oggi, non nelle crociate, non in zone magari limitate, conoscete voi ebrei, cristiani, buddisti, ci ha detto anche, ci ha raccontato Giglioli, induisti che uccidono così di massa, in massa, ripetutamente, in paesi altre persone perché le reputano infedeli, le reputano non seguaci del loro stesso Dio. Ecco, meditate su questo, cioè se uno non vuole vedere che c'è questo tipo di problema, va bene, non guardiamolo in faccia. Allora, le notizie del giornale radio e poi torniamo alla rassegna stampa, ovviamente tutti gli aggiornamenti su Nizza. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, siamo qui, sono le 7:19 minuti, ovviamente una rassegna stampa oggi un po' particolare, certo leggerò quello che c'è sui giornali, ma lo sguardo, l'attenzione, gli occhi, le nostre orecchie sono tutte per quello che è successo ieri sera a Nizza, e Radio 24 vi sta aggiornando passo dopo passo e continuerà a farlo. Dove ricordiamo a Nizza cosa è successo? Un camion guidato da un franco tunisino, franco algerino, non si è ancora chiarito al 100%, ha travolto le persone che festeggiavano ieri la festa nazionale, il 14 luglio in Francia, ha travolto le persone volontariamente, uccidendone, passando su di loro a 80 km all'ora sulla folla, uccidendo, si pare, 80 di queste persone. E la persona poi, oltre che passare, travolgere le persone, sparava anche all'impazzata. Ovviamente si pensa a un attacco stile quelli del Bataclan, stile quelli di Charlie Hebdo, un attacco di matrice terroristica islamica, anche se ovviamente non ci sono rivendicazioni, ma tutto lascia presupporre questo. Vabbè, intanto vediamo i titoli dei giornali. Ovviamente, siccome è successo tutto ieri sera, non tutti i giornali sono riusciti a mettere in ampio risalto quella che è certamente per la notizia sconvolgente più importante della giornata. Il Sole 24 Ore, sopra il titolo, su Wall Street al terzo record, banca sul podio a Milano, scrive: incubo, terrorismo a Nizza, camion e spari sulla folla, 77 morti. Il Corriere della Sera, la strage di Nizza, camion sulla folla, almeno 77 morti, decine di feriti. C'è anche una foto di un corpo coperto e una bambola lì vicina sull'asfalto. Terrorismo a Nizza, la strage del 14 luglio, camion killer, 73 morti sul lungomare, Repubblica. Ecco, non concentriamoci sulla cifra, purtroppo le cifre messe nei titoli così poi rischiano di essere aggiornate. Francia sotto attacco è anche il titolo della Stampa, di prima pagina. Camion sulla folla è un altro Bataclan, questo è il titolo del giornale. Mentre il giorno, furia islamista, strage a Nizza, camion travolge la folla sulla Promenade des Anglais nell'anniversario della presa della Bastiglia. Questo per quel che riguarda i titoli, come dire, aggiornati. Evidentemente di altri giornali ho edizioni vecchie rispetto a una, quella che si chiama in gergo la ribattuta. Il Messaggero, treni, indagini sul ministero, mentre La miseria morde, il titolo di apertura di Avvenire, l'Istat certifica 4,6 milioni di persone in Italia sono in povertà assoluta. Però Nizza, iniziamo proprio da qui. Intanto il racconto, la cronaca, leggo da pagina 2 del Corriere della Sera, Stefano Montefiori. Un camion è piombato sulla folla ieri sera intorno alle 22:45 a Nizza, alla fine dei fuochi artificiali per il 14 luglio, festa nazionale della Francia. Secondo una prima ricostruzione fornita nella notte dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, l'attentatore alla guida del veicolo sparava sulla gente dal finestrino mentre guidava. Il bilancio provvisorio è almeno 77 morti, decine di feriti, una quarantina in condizioni critiche. Un testimone dice di aver visto l'attentatore scendere dal camion e colpire a bruciapelo i passanti. La polizia avrebbe sparato nel tentativo di fermare il mezzo, come dimostra il parabrezza crivellato di colpi. L'attentatore è stato abbattuto dalle forze dell'ordine. Alcuni testimoni sostengono di aver sentito l'uomo gridare Allah Akbar prima di essere ucciso. A tarda notte nessuno ha ancora rivendicato l'attacco, anche se su internet alcuni sostenitori dell'ISIS esultavano, secondo il sito di monitoraggio delle attività jihadiste online, Site. E questa è la fredda cronaca. La Stampa è riuscita a contattare un italiano, come abbiamo fatto anche noi qui a Radio 24. Questo italiano si chiama Martino Antonino, ha 26 anni, di Montecatini Terme, lavora alla gelateria Pinocchio in Rue Gambetta, a 100 metri di distanza dall'hotel Negresco, vicino al luogo dove ci sono stati sicuramente alcuni morti. E racconta la Stampa: ho visto gli occhi di quell'uomo al volante. Subito dopo hanno cominciato a sparare. Abbiamo visto quel camion piombare sulla folla. La faccia dell'uomo al volante aveva gli occhi di fuori. Poi i corpi sono volati in aria. La polizia ha iniziato a sparare. Questo è l'inferno del 14 luglio di Nizza. Martino Antonino racconta ancora alla Stampa: ho visto quattro corpi senza vita davanti al locale, sono morti schiacciati nella calca, due sono ancora qui davanti ai miei occhi, gli altri li hanno portati via, è stato orribile, non avevo mai visto nulla di simile. In questo momento davanti a me ci sono due elicotteri atterrati in mezzo alla piazza, sembra di essere in guerra, anzi no, siamo in guerra. E continua ovviamente questo racconto. Tra l'altro io vi do il numero per i vostri messaggi, il 349-238-6666, è un numero anche WhatsApp, e vi chiediamo, visto che continueremo nella programmazione, anche se siete di Nizza, ci ascoltano molti dall'estero e avete qualcosa da raccontarci di quello che avete visto, scriveteci con la possibilità di richiamarvi se siete in Francia, se siete in qualche modo testimoni, avete contatti con qualcuno per raccontarci quello che è successo nella serata di ieri. Ovviamente non ci sono rivendicazioni, ma a parte alcune testimonianze che dicono di aver sentito urlare all'Akbar, si pensa che la tipologia di attentato è quella che riconduce all'ISIS. Anche perché fanno notare molti giornali la modalità, quella di utilizzare un veicolo e uccidere travolgendo le persone, non è una modalità estranea all'ISIS. Proprio Repubblica, come tutti i giornali, ma Repubblica con Gianluca Di Feo, dedica a pagina 4 la tematica seguente: l'appello del califfato, colpite tra la gente. E raccontava in un audio diffuso a fine maggio su Twitter Abu Muhammad al-Adnani: se uno di voi spera di raggiungere lo Stato islamico, noi desideriamo che resti al suo posto per punire i crociati notte e giorno. Lo devono fare soprattutto i combattenti, i sostenitori del califfato in Europa e negli Stati Uniti. Attaccate i civili e i militari, non dategli tregua. La più piccola azione che riuscirete a compiere nella patria degli infedeli sarà più importante di quello che potreste fare qui con noi. E si raccontava nell'audio anche di uccidere gli infedeli, così vengono definiti, cioè noi siamo gli infedeli, in qualunque modo. Preparatevi, siate pronti, portate disastro ovunque per gli apostati. Loro non fanno distinzione tra civili e soldati, ricordatelo. E si parlava anche di utilizzare, nel caso, mezzi come le macchine, come i camion, proprio in qualsiasi modo, in maniera esplicita, travolgeteli con le auto, uccideteli, insomma, in qualsiasi modo. Può darsi che questo lupo solitario, sempre che sia un lupo solitario, perché la polizia francese ovviamente dice si cerca anche eventuali complici, abbia interpretato questo tipo di ordini. Hollande è il panico da fermare, il vertice nella notte a Parigi. Marco Imarisio racconta a pagina 5 del Corriere della Sera che il presidente si è riunito con l'unità di crisi e pensate che il 26 luglio avrebbe revocato lo stato di emergenza. Invece eccolo qua il piano di sicurezza che ora proseguirà. Ha avuto dimensioni inquietanti con la mobilitazione di oltre 90.000 agenti tra poliziotti, militari, guardie private, ma ha funzionato. gli stadi si sono riempiti come se nulla fosse, anche quello di Saint-Denis, dove i terroristi del 13 novembre avevano progettato la strage più grande di quel tragico venerdì. E così le cosiddette fan zone, tra cui quella gigantesca sotto la Torre Eiffel che ha accolto fino a 90.000 tifosi, si erano riempite nonostante gli hooligan, nonostante qualche falla nella sicurezza durante il primo girone degli europei. Non ci sono stati attacchi all'inizio della manifestazione, nessuno ci avrebbe scommesso un euro. E invece, mentre era pronto Hollande appunto a dire revochiamo lo stato di emergenza, ora questo nuovo attentato. Si guarda anche in Italia e le contromisure del Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, sono quelle di rafforzare i controlli al confine, anche per evitare una fuga in Italia nel caso questa persona avesse dei complici. E Nizza, certamente, come sapete, non è distante dall'Italia. Racconta tra l'altro Luca Fazzo sul Giornale, a pagina 6, sale il rischio terrorismo, forse questo articolo è stato scritto anche prima della vicenda di Nizza, più sorveglianza sugli obiettivi sensibili. Sappiate che in Italia, fa sapere Luca Fazzo, negli ultimi 18 mesi sono stati espulsi 99 integralisti islamici sospetti, di questi 9 sono imam, i cosiddetti lupi solitari, cellule individuali di pochissime persone pronte a colpire spontaneamente con azioni disorganizzate dal potenziale terribile su tutto il territorio nazionale. Ci sono e sono stati cacciati, e gli imam itineranti, predicatori del jihad che si aggirano per il paese, portano il verbo della guerra santa nelle moschee. Sono questi due elementi di punta dell'allarme che il ministro degli interni Alfano ha portato all'esame del Comitato Nazionale per la Sicurezza, ma insieme al profilo delle minacce incombenti a far scattare l'allarme è stata una novità degli ultimi giorni, e cioè questa, scrive il giornale. Nei giorni scorsi i vertici dell'intelligence hanno incontrato il ministro, insieme a lui hanno affrontato il fenomeno generale e un caso specifico, quello di un presunto terrorista islamico entrato indisturbato in Italia e solo recentemente individuato ed espulso. L'identità è top secret, ma il fatto che sia stata decisiva nell'allarme fa capire che non si è trattato di un'espulsione di routine. Insomma, nessuno si può ritenere immune da questi rischi. Vabbè, oggi le mani sul volante non le mettiamo. O meglio, bisognerebbe metterle per tutti questi articoli e per le notizie che continuano ad arrivare. Continuiamo nella rassegna stampa tra qualche istante, dopo la pubblicità, ovviamente, oltre agli articoli che leggerò, sono dedicati anche ad altro, la vicenda di Puglia, la politica italiana, ci fosse qualsiasi tipo di aggiornamento da Nizza, ve lo diamo in presa diretta. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta, tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Allora, cari ascoltatori, sono le 7:35 minuti, aggiornamento proprio che danno le agenzie su quello che è l'attentato di Nizza. Secondo la polizia, purtroppo bisogna aggiornare al rialzo il numero dei morti, sono almeno 84 i morti a Nizza e un centinaio sono i feriti, di questi sono alcuni in gravissime condizioni, 18 di loro restano in condizioni gravissime, quindi si teme che possa arrivare anche a un numero più alto degli 84 già morti. Ripetiamo, chi non avesse avuto occasione di sentire finora, ieri un attentato, una persona franco-algerina o franco-tunisina, secondo alcuni testimoni, dopo aver urlato all'Akbar, si è scagliata con il proprio camion sulla Promenade des Anglais, dove c'erano migliaia di francesi che stavano festeggiando la festa nazionale, la presa della Bastiglia, il 14 luglio. Ha travolto le persone con l'intento di ucciderle, sparando anche su di loro, e appunto si parla di 84 morti almeno, bilancio di 2 minuti fa dato dalle agenzie, e 11 persone, anzi 18, scusate, ferite in maniera molto grave e un centinaio ferite a vario titolo. Allora, ovviamente approfondiremo anche, e ci dedicheremo a questo, anche con Oscar Giannino. Poi dalle 9.30 alle 10.30 abbiamo sentito Radio 24 fare uno speciale. Insomma, non vi abbandoneremo ogni secondo per raccontarvi le novità. Io vi invito ancora, se volete, scriverci invece un messaggio al 349-238-6666, soprattutto se avete, se siete della zona, se ci ascoltate da Nizza, se avete testimonianze, se avete persone che possono da lì raccontarci quello che è accaduto. Radio 24, come sapete, ha i microfoni sempre aperti in questo caso. Per quel che riguarda i giornali, ovviamente ci sono ancora molte pagine dedicate alla Puglia e a quello che è stato l'incidente ferroviario tra Andria e Corato. Ieri le parole dell'anticorruzione, capo dell'anticorruzione Cantone, sono parole che sono risuonate in maniera molto inquietante, perché le accuse di Cantone: la corruzione blocca le opere. Racconta il Corriere, prima di iniziare la presentazione della relazione annuale dell'autorità nazionale, il presidente dell'ANAC Cantone si sofferma sulla strage in Puglia e dice: è frutto probabilmente di un errore umano, ma anche conseguenza di un problema atavico del nostro paese, di mettere in campo infrastrutture adeguate, e una delle ragioni di ciò è da individuarsi nella corruzione. Insomma, una frase molto molto chiara. A proposito della Puglia, Repubblica dedica due pagine, 6 e 7, a definire quelli che sono stati individuati, secondo inquirenti, secondo le prime ricostruzioni, i 4 errori, non uno, non due, non tre, ma 4 errori. Dal via libera al treno ai fonogrammi ignorati, ecco perché la strage non è stata evitata. Certo, il primo errore, quello più grave, lo commette il capo stazione di Andria, Vito Piccarreta, è indagato. È lui che fa partire l'ET-1021 nonostante il binario sia ancora occupato dal treno che sta arrivando a Corato, da Corato. Come fa a sbagliare? L'accumulo dei ritardi potrebbe avergli giocato un brutto scherzo. Il treno precedente sarebbe dovuto arrivare ad Andria alle 10.37 e invece giunge alle 11.01. Esattamente quando sarebbe stato previsto l'arrivo del treno successivo. Dunque Piccarreta è possibile che scambi i due treni, vede un treno, pensa che sia quello che solitamente a quell'ora arriva da Corato e dà il segnale del via libera. Poi il secondo errore: secondo i primi rilievi compiuti dalla Ferrotranviaria, anche Alessio Porcelli, capostazione di Corato, potrebbe aver compiuto una grave leggerezza. La seconda: risulta infatti che da Corato il treno ET-1016, quello del disastro, sia partito quando ancora il precedente non aveva raggiunto Andria. Non c'era stato il segnale digiunto, come viene definito in gergo il fonogramma di arrivo treni. Non solo. Secondo i magistrati, da Corato avrebbero potuto capire che c'era qualcosa che non andava con il fonogramma inviato da Vito Piccarreta, perché non era possibile, tempistica alla mano, che il secondo treno fosse già arrivato ad Andria. Il tempo di percorrenza minimo, come detto, è di almeno 10 minuti e ne erano passati 5 al massimo. Qui il terzo errore: nessuno si accorge dell'incongruenza. I due treni procedono spediti verso lo scontro. Questi almeno 3 dei quattro errori che si sono forse accumulati. E racconta Repubblica, poi c'è il quarto: ci sono altre due persone che potevano accorgersi di quanto stava per accadere, il capotreno e il macchinista della vettura che da Andria si muove per Corato. A bordo avevano infatti il libretto di viaggio con tutte le istruzioni, era specificato l'incrocio, quello che si chiama in gergo, alla stazione dovevano avere i due treni provenienti da Corato prima di partire. Si tratta di un doppio controllo visivo che, secondo le procedure, avrebbero dovuto rendere quello che è accaduto impossibile. Eppure è successo. Il ministro Delrio viene intervistato dal Corriere della Sera, a pagina 15, da Monica Guerzoni. Dice: la rete italiana su chi viaggiano i pendolari è considerata totalmente sicura. Oggi sappiamo che si deve intervenire prima sui sistemi tecnologici, anche se i raddoppi dei binari sono necessari perché aumenta la capacità di trasporto. Ben 9.000 dei 16.700 km di rete nazionale sono a binario unico, ma non è quello il tema. Riguarda le tecnologie, dice, sono tecnologie, le nuove, che richiedono investimenti importanti delle regioni. Questo disastro ha aspetti paradossali. Il raddoppio del binario era già stato bandito e proprio adesso che il governo, anche se non è nostra competenza, aveva deciso di mettere altri soldi nelle linee regionali, è successa una tragedia così grave. Però respinge le accuse politiche, nello specifico del 5 Stelle, dice Del Rio, mi fanno una grande tristezza. Trovo incredibile che ci sia chi usa il dolore e la disperazione per fare speculazione politica. L'onorevole D'Ambrosio, mentre i 5 Stelle hanno fatto un intervento responsabile e intelligente al Senato, alla Camera D'Ambrosio è stato di una scorrettezza unica. Così il ministro Del Rio. A proposito di decreto bloccato, il decreto sui controlli bloccato dalle regioni. Pagina 4 del Messaggero, Umberto Mancini racconta: gli enti locali hanno ritardato la discussione del testo che unificava i sistemi di sicurezza. È quello che si diceva anche ieri e che ora viene ribadito. Le ultime da Nizza. Ovviamente, come era prevedibile, l'antiterrorismo, la procura antiterrorismo di Nizza ha aperto un'inchiesta, si apprende da fonti francesi, quindi si parla di terrorismo e questo era abbastanza chiaro. Ripeto, si parla di al momento 84 morti, ma anche 18 feriti in condizioni gravissime. Questo è il contesto, ai noi. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Ovviamente buongiorno. Non c'è solo questo, anche se c'è in ampio risalto anche in prima pagina del Sole, ma c'è anche sì, altro. Sì, infatti, poi naturalmente, come stai anche tu informando sul sito anche del Sole 24 Ore, sole24ore.com, stiamo aggiornando continuamente le notizie da Nizza. Tra l'altro la proroga anche di 3 mesi per lo stato di emergenza in Francia, esatto, che doveva, si pensava venisse revocato dalla fine di luglio, insomma di qui a pochi giorni. Altre cose sul Sole 24 Ore di oggi, in rapida sintesi, è stato varato, come dicevo ieri, questo decreto sulle partecipate, ma deve fare ancora un passaggio parlamentare, quindi la riduzione partecipate non parte ancora, però si conta di completare il tutto entro l'estate. C'è un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle concessioni delle spiagge, le concessioni demaniali. Noi le avevamo prorogate in Italia, ma dice la Corte che dobbiamo fare delle gare, quindi questo sarà un argomento di, così, che susciterà parecchie polemiche nei prossimi giorni. Una cosa rilevante: il calendario delle scadenze fiscali conferma la proroga del 770 e altre proroghe anche al 22 agosto. Sono tutte nelle pagine Norme e Tributi, naturalmente. E poi un'altra cosa importante per la generalità di tutti quanti: finalmente è pronto il decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna i livelli essenziali di assistenza, cioè le cure che devono essere erogate. Tra l'altro si supera anche il problema di quella appropriatezza. Era stata una questione molto contestata dai medici, che potevano essere accusati di inappropriatezza nelle prescrizioni. Questo decreto lo supererà, ne parliamo oggi sul Sole. È tutto per oggi, vi aggiorniamo in continuo naturalmente dal sito e da Radio 24 e buona domenica per quanto possibile a tutti quanti. Certo. Dai Mauro, andiamo a sentire il traffico, oggi lo dico io, e poi ovviamente tutte le notizie sempre su Nizza e continuiamo anche la lettura dei giornali, le altre notizie. E allora, eccoci qua, 7:47. Allora, come detto, sono 84 per ora le vittime a Nizza. Noi vi terremo aggiornati con la programmazione continua. Dopo ci sarà tra poco il giornale radio con le ultime novità, poi con Oscar Giannino, ovviamente, e poi uno speciale dalle 9:30 alle 10:30 dedicato a questa tragedia, a questo ennesimo attentato. Continuando invece a vedere quello che ci sono i giornali, questa notizia data e diffusa dall'Istat, beh, è una notizia e una cifra che mi ha colpito molto e bisognerebbe metterla davvero in prima pagina in ampio risalto. Sapete quanti italiani sono considerati in povertà assoluta? 4.600.000 italiani. È il record dal 2005. La crisi economica, come racconta Roberto Petrini a pagina 15 di Repubblica, negli ultimi anni ha lasciato il segno: povertà in crescita in Italia più che in altri paesi. Questa drammatica fotografia è stata data ieri dall'Istat. Soffrono le famiglie numerose, quelle di origine straniera, ma soprattutto il nucleo tipo, cioè due genitori giovani, due figli, che fanno fatica a sbarcare il lunario. Nude cifre dicono che ci sono 4.598.000 italiani che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, sono il 7,6% degli italiani. Ed è un dato in crescita, il più elevato dal 2005. Nel 2014 era fermo al 6,8%. La radiografia indica che la povertà assoluta è salita tra le coppie con due figli dal 5,9% del 2014, 5,9% degli italiani, all'8,6% dello scorso anno. Colpite di più anche le famiglie di origine straniera, si passa dal 23,4% del 2014 al 28,3% delle famiglie straniere nel 2015. Avvenire, giustamente, a mio modo di vedere, dedica il titolo di prima pagina a questa tematica, ovviamente prima di sapere della strage di Nizza. La miseria morde, questo è il titolo di prima pagina ad Avvenire, povertà assoluta record. E che cosa si pensa di fare? Si racconta, la Camera si muove sia al reddito di inclusione, si chiama così, il nuovo strumento di contrasto alla povertà previsto dalla legge delega che ieri ha ottenuto in prima lettura il via libera della Camera. Il voto arriva proprio nel giorno in cui l'Istat segnala questo aggravamento delle disparità sociali in Italia, racconta Nicola Pini su Avvenire a pagina 7. Provvedimento che divide il fronte politico. Per Renzi su Twitter è la prima misura organica della storia repubblicana contro la povertà approvata, 1,6 miliardi in due anni. Le opposizioni rilevano invece l'esiguità dei fondi finora a disposizione, insufficienti per arginare un fenomeno che coinvolge appunto 4 milioni e mezzo di persone. Però la notizia è molto molto forte con questa cifra. Per quel che riguarda la politica, beh, ci sono le solite manovre. Intanto, a leggere i giornali, lo spettacolo che nei primi giorni stanno dando il Movimento 5 Stelle a Roma è uno spettacolo abbastanza, così, se si leggono i giornali si dà per vero le versioni, abbastanza penoso, nel senso che si parla di correnti, di frazioni. Ora Lombardi, deputata, lascia lo staff che dovrebbe supportare nelle scelte il sindaco di Roma, Virginia Raggi, l'addio al mini direttorio, gelo con la Raggi, e racconta Emanuele Buzzi a pagina 18 del Corriere della Sera che c'è ora la rabbia degli ortodossi di Fico, si parla proprio di divisioni per correnti. Roberto Fico guiderebbe un'ala ortodossa del movimento rappresentata dai valori e dalle posizioni sue di alcuni senatori della prima ora che non si rassegnano alla sconfitta e preparano battaglia a colpi di attivisti. Si racconta insomma di un movimento a Roma, almeno per i primi giorni, molto spaccato. Questo lo raccontano tutti i giornali. Repubblica racconta del diktat di Casaleggio: ora più spazio ai moderati, dobbiamo far capire che possiamo governare. Sarebbe andata così con Beppe Grillo, che ha chiesto a Roberta Lombardi il passo indietro. Questo racconta Annalisa Cuzzocrea e Matteo Pucciarelli nel retroscena di pagina 13. Mentre succede un cambiamento abbastanza importante per quel che riguarda la politica, i gruppi parlamentari, ma che coinvolge di fatto anche il governo, perché il viceministro Zanetti, quindi membro del governo e fa parte di Scelta Civica, ha creato insieme ad altre persone di Scelta Civica un gruppo nuovo in Parlamento unendosi ai verdiniani. Zanetti fa il colpaccio, l'asse con Verdini per pesare su Matteo. E cosa vuol dire? Vuol dire che Scelta Civica, come racconta Goffredo De Marchis su Repubblica pagina 12, che si spacca, anzi si frantuma, usa questo verbo De Marchis, il segretario e viceministro all'economia Zanetti l'abbandona e si porta via il simbolo e il logo, e insieme ad altri tre deputati ha creato un nuovo gruppo parlamentare a Montecitorio con Verdini. Il risultato, secondo il Fatto Quotidiano, è il titolo di prima pagina ed è questo: Verdini entra nel governo. Ovviamente formalmente non è così, ma per dire, cioè, un viceministro si allea con Verdini in Parlamento. questa la situazione politica. Per quel che riguarda la... Ah no, ecco, di politica, cioè non c'entra molto con la politica, però in realtà, diciamo, tocca da vicino il presidente del Consiglio Renzi. Il giorno da questa notizia è indagato per riciclaggio il cognato di Renzi, cioè il marito della sorella di Renzi. Operazioni sospette coi soldi delle associazioni umanitarie. E così ieri la Guardia di Finanza, racconta Stefano Brogioni del giorno, è arrivata in quel di Rignano sull'Arno a casa della sorella di Renzi. Ma l'obiettivo non era lei, Matilde, bensì il marito, il manager di origine bolognese Andrea Conticini, 35 anni, indagato a Firenze per riciclaggio. Con lui i suoi fratelli, il gemello Luca e il più grande dei tre Alessandro, anche loro perquisiti pochi giorni or sono. Per loro l'accusa invece di appropriazione indebita. Insomma, la procura indaga su operazioni con i soldi di associazioni umanitarie sul cognato del presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Oh, vi segnalo che le ultime di Nizza è questa: sono state interdette le spiagge lungo la promenade, niente spiaggia dunque oggi a Nizza, accesso agli stabilimenti balneari pubblici privati che sono stati interdetti poco fa, questo lo dicono le agenzie, la situazione parla di 84 morti appunto, ma gli ultimi aggiornamenti li dà tra poco il giornale radio e poi noi continuiamo. Oggi la carta costa è sospesa perché non è il momento, e dunque state sempre con noi su Radio 24.